Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko ad Anna Soares, una songwriter e producer di Stanza a Milano che oggi ci presenterà il suo nuovo progetto. Ciao Anna, benvenuta sui 103.1. Grazie mille e buongiorno a tutti. Il 21 ottobre è stato pubblicato il tuo nuovo singolo per Generation Records, Daddy Issues. Vorrei iniziare questa intervista chiedendoti come nasce questo singolo e come nasce questo progetto. Allora, in effetti Daddy Issues fa parte del disco che ho praticamente annunciato oggi, che è Sacred Erotic, un disco che ho scritto l'anno scorso durante il primo lockdown, ed è un disco che cerca un po' di attraversare una sorta di percorso che oscilla continuamente tra la sessualità e la spiritualità. Nel caso specifico di Daddy Issues parliamo di un brano che vuole scavare all'interno del dolore, di un dolore vissuto sia fisicamente sia interiormente, ed è un qualcosa che appunto va attraversato affinché ci possa essere un'evoluzione interiore, quindi è molto presente la sfera spirituale e la sfera introspettiva. Nel tuo lavoro c'è un forte legame con il BDSM. Innanzitutto ti chiedo se hai voglia di raccontare un po' bene, spiegare bene che cos'è questa pratica e nello specifico come si sviluppa poi questo rapporto all'interno della tua musica e dei tuoi lavori e poi dei tuoi progetti. Sì, certo, volentieri. BDSM è una delle sessualità alternative o sessualità atipiche che vengono definite così ed è un approccio all'erotismo abbastanza estremo, tra virgolette. E la sigla sta appunto per bondage, dominazione, sottomissione e sadismo e masochismo ed è tutta una serie di pratiche che vengono appunto messe in atto all'interno di un atto erotico. Questo può sicuramente sembrare un qualcosa di piuttosto strano o comunque insolito, in realtà sappiamo che 4 milioni e mezzo di italiani lo praticano, quindi è una cosa neanche troppo insolita. Ed è un qualcosa che ho sentito di voler mettere all'interno della mia sfera musicale e sonora nel momento in cui ho iniziato a produrre, ovvero poco prima del primo lockdown dell'anno scorso, effettivamente. Ed è una cosa che io sento molto mia a livello personale, a livello intimo, e come puoi ben immaginare, quando tu ti affacci all'arte, no, e cerchi di creare qualcosa, alla fine ciò dal quale tu trai veramente ispirazione è il tuo mondo interiore. E nel mio mondo interiore c'è tanto di queste cose qui. Per cui, essendo che tra le altre cose in Italia purtroppo si vive un grande tabù nei confronti della sessualità e nello specifico delle sessualità alternative, mi sembrava anche un atto politico voler mettere in luce queste tematiche, ecco. Tra l'altro, appunto, il BDSM o comunque altre pratiche di sessualità alternative vengono appunto un po' anche stigmatizzate a livello sociale e quindi credo sia difficile poi andare a portare nei propri lavori, in questo caso anche nella propria musica, tematiche del genere. E ti chiedo a proposito di questo, come si approccia un tipo del lavoro del genere, come si uniscono queste due tematiche poi anche rispetto alla realizzazione di un progetto musicale. Guarda, ti dico, non è proprio semplicissimo perché se da un lato chiaramente tu approcciandoti con una modalità di stampo artistico sei visto come un artista, quindi una persona che comunque va ad attingere delle cose interiori, dall'altro lato, come dicevi tu, c'è un grande stigma, principalmente in Italia, ma in realtà è una cosa molto diffusa, più che altro per mancanza di conoscenza di queste tematiche qui. Io, tra l'altro, nell'ultimo anno ho avuto la fortuna di conoscere un sacco di persone che fanno parte della comunità BDSM e non, che si occupano di divulgazione online di queste tematiche. E credo che oggi sia veramente importante fare tanta divulgazione proprio per abbattere questi tabù, no? Io, per esempio, ho affiancato nell'ultimo anno, oltre all'attività artistica e musicale, dei video su YouTube all'interno dei quali cerco un po' di fare chiarezza su delle tematiche, proprio perché mi rendo conto che magari una persona esterna a questo mondo non può cogliere tutte quelle sfaccettature proprio perché non c'è dentro e quindi mi sembra giusto dare delle spiegazioni oltre che dare una visione artistica. Ti faccio l'ultima domanda rispetto al futuro, se ci sono delle date, se c'è un tour in arrivo, se ci sono dei live e se all'interno di queste serate dal vivo unisci anche a livello performativo un po' le tematiche del BDSM rispetto anche alla musica o comunque il concerto. Certo, guarda, allora sicuramente all'orizzonte il 26 novembre uscirà il mio primo disco di cui ti parlavo prima, Sacred Erotic, e quella sera lì faremo una presentazione al Klang di Roma. Dopodiché ci saranno un po' di date tra Milano, Torino, che annuncerò man mano sui miei social, e Per quanto riguarda invece l'aspetto performativo, ci sono degli elementi del BDSM che mi piace inserire all'interno delle mie performance, però ti parlo di cose prettamente estetiche, quindi riguardanti per esempio il look, riguardanti le movenze. Non ci sono elementi particolarmente espliciti, perché comunque non fa parte, io comunque sono una musicista, una cantante, una cantautrice, per cui preferisco comunque concentrarmi sempre di più sul lato sonoro piuttosto che su quello meramente sessuale della performance, ecco, diciamo così. Anna, io ti ringrazio, ti auguro una buona fortuna chiaramente per tutti i tuoi progetti e speriamo anche di poterci vedere presto, e un grande in bocca al lupo. E sono io che ringrazio te per questa bella chiacchierata, grazie mille. Grazie, ciao. Ciao.